Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Belco, ripartire dopo il terremoto, di Alessandra Scaglioni. Esattamente, precisamente la produzione ha ripreso il 3 settembre, essendo produzione su 3 turni, quindi tutto il personale rientra a bordo entro il 7 settembre. Nell'arco di questa settimana ha ripreso la produzione una delle aziende del distretto biomedicale di Mirandola, colpita dal terremoto del maggio scorso, la Belco. Attiva da 40 anni, tra i primi 5 operatori mondiali nell'ambito dei sistemi per emodialisi, 108 milioni di fatturato, l'azienda era stata fortemente danneggiata dal terremoto e la ricostruzione si presentava particolarmente delicata, soprattutto per quel settore, la cosiddetta camera bianca, in cui la produzione viene realizzata in ambiente altamente sterile. A raccontarci come ha reagito l'azienda dopo il terremoto e come si è arrivati alla ripresa della produzione, l'ingegnere Antonio Leone, presidente di Belco. Abbiamo immediatamente montato delle tensostrutture nelle aree dei parcheggi, chiedendo ai nostri dipendenti di andare a parcheggiare le auto fuori dell'azienda, e abbiamo trasferito immediatamente la produzione delle apparecchiature sotto tensostruttura. E ai primi di agosto siamo stati già in grado di rispedire nuove apparecchiature montate. Invece il grosso problema era come rimettere e ricostruire la cosiddetta camera bianca. Non solo dovevamo ricostruirla, ma come voi tutti sapete, la legge richiedeva giustamente che la nuova struttura fosse antisismica, anzi ci avevano detto che bastava che fosse antisismica al 70%, noi abbiamo deciso per andare immediatamente a dire che volevamo una struttura antisismica al 100%. I nostri azionisti, che è il fondo Charm gestito dalla famiglia Montezemolo, ci ha messo a disposizione imprese che lavorano anche alla Ferrari di Maranello, altamente specializzate. Queste imprese hanno lavorato turni di giorno e di notte, e i nostri stessi collaboratori hanno considerato tutto questo un miracolo. Le migliori previsioni di chi aveva visitato il posto era che avremmo ripreso la produzione a marzo-aprile del 2013, invece il 3 settembre la camera bianca era perfettamente in funzione. La camera bianca è la zona dove vengono prodotti i filtri per gli apparecchi di dialisi renale. E il settore in cui è attiva la Belco è un ambito in cui sospendere la produzione presenta qualche problema aggiuntivo. Noi abbiamo fatto una decisione iniziale che avevamo due obiettivi. Primo obiettivo, come voi sapete, la dialisi è una terapia, gli inglesi la chiamano life sustaining, cioè se non fa la dialisi il paziente muore, non ci sono i pazienti che possono aspettare, quindi prima di tutto dobbiamo avere l'obiettivo che i pazienti che fanno dialisi sulle nostre apparecchiature nei centri ospedalieri in Italia e nel mondo fossero protetti. Seconda cosa, il più grosso valore di questa azienda è il personale che abbiamo. Se avessimo lasciato queste persone fuori dal lavoro per molto tempo, sicuramente ne avremmo persi. Quindi il nostro obiettivo era non guardare in questo momento gli aspetti economici dei costi della ricostruzione, ma procedere con i tempi più rapidi possibili, dimenticando per un momento gli aspetti economici. 260 dei 364 dipendenti dell'azienda lavorano e vivono nell'area di Mirandola e sono stati colpiti anche personalmente dal terremoto. I dipendenti sono tornati al lavoro, ma alcuni di loro vivono ancora nelle tende. Noi abbiamo avuto dipendenti che ancora adesso dorme nelle tende, ma che non hanno fatto assenza dal lavoro quando sono stati chiamati a dire dovete tornare a lavorare. Noi abbiamo rimesso in funzione il gruppo di ricerca R&D, dove ci sono ben 80 ingegneri, sotto una tenso struttura, di nuovo tutto controllato, con aria condizionata, con tutti i crismi di sicurezza, e nessuno di questi ci ha detto non vengo perché ho problemi. E questo è qualcosa di speciale che si deve soprattutto alle persone di quest'area. La storia di Belco è strettamente legata a quella del distretto biomedicale di Mirandola e prende il via nel 1972. A fondarla un nome di riferimento del settore, Mario Veronesi. Tutte queste aziende sono nate da un signore che è ancora bello, vivo e vegeto in gamba, che si chiama Mario Veronesi. Mario Veronesi era un farmacista di Mirandola che a tempo perso ha cominciato a produrre tubi endotracheali, cateteri o roba del genere, e ha cominciato a fare un'azienda dietro l'altra, e ogni volta che questa azienda raggiungeva un minimo di massa critica l'ha venduta a tutta una serie varie di aziende nazionali e internazionali. Belco è nata di nuovo, fondata da Mario Veronesi, vuol dire bella compagnia, cioè aveva creato un gruppo di amici che gli piacevano, che avevano intuizione per sviluppare un rene artificiale. Belco è stata all'avanguardia per molti anni nel campo della dialisi, e soprattutto in Italia era l'unica azienda nel campo della dialisi renale. E devo dire, con la nuova proprietà azionaria, i programmi di sviluppo sono molto importanti. In 40 anni i passaggi di proprietà sono parecchi. Nel 1983 i soci fondatori vendono alla Sclavo, gruppo Eni. Nel 1987 il passaggio all'Enichem e 3 anni dopo a Sorin Biomedica, gruppo Fiat. Dal 2009 Belco torna indipendente con una nuova compagine societaria in mano a fondi di private equity. Infine l'ultimo passaggio a marzo 2012, pochi mesi prima del terremoto, al fondo Charm della famiglia Montezemolo. Oggi Belco resta un'azienda solida dal punto di vista economico. Noi abbiamo un fatturato significativo, abbiamo dei risultati di profitto buoni, abbiamo una situazione finanziaria eccellente, perché l'acquisizione fatta dal gruppo Charm della famiglia Montezemolo è stata fatta, come si dice, in equity, senza aggiungere un euro di debito all'azienda, quindi proprio col concetto di sviluppare l'azienda. Il 46% dei ricavi viene realizzato in Italia, il 54% all'estero, con succursali indirette e una rete di agenti e distributori. Noi abbiamo in Italia la produzione sia delle macchine di dialisi, tutta la produzione dei filtri e di altri accessori, mentre abbiamo anche una produzione di soluzione in Francia, vicino Tolosa, per le cosiddette soluzioni dializzanti che si usano durante il processo. All'estero abbiamo poi le filiali di vendita, assistenza tecnica e supporto scientifico. Siamo presenti in Francia, Spagna, Belgio e siamo il numero uno nel mercato canadese della dialisi. La conquista del mercato canadese è avvenuta un po' per volta e ha portato la Belco a divenire leader di mercato nel paese. Abbiamo trovato anni fa un distributore che era molto bravo, dopodiché l'abbiamo fatta diventare filiale diretta, è un gruppo di professionisti molto in gamba che ha saputo presentare bene i prodotti, e quindi siamo stati scelti dalla comunità medica canadese come azienda leader nel campo della dialisi. Le risorse economiche messe a disposizione dalla proprietà sono state fondamentali. Al momento non sono arrivati aiuti pubblici e la ricostruzione è avvenuta con le risorse dell'azienda e una grande attenzione da parte delle amministrazioni locali. Se vogliamo parlare di aiuti, c'è un aiuto di cui io dico sempre bisogna dare atto alle autorità locali, alla regione Emilia-Romagna e al comune, che sono stati rapidissimi nel dirci sulle cose che volevamo fare, quello che ci permettevano di fare, quello che volevano che facessimo in modo diverso o quello che non dovevamo fare. Veramente sono stati bravissimi a non crearci nessun problema di natura burocratica. Per il resto abbiamo avuto qualche aiuto, nel senso che noi abbiamo notevolissimi crediti, come tutti sanno, dal Sistema Sanitario Nazionale, qualche azienda ci ha dato una mano a pagare i debiti che aveva nei nostri confronti, ma per il resto devo dire che non abbiamo avuto per ora nessun aiuto, però come lei sa sono previste degli aiuti che si arriveranno. Ben vengano, e su questo naturalmente cercheremo di fare uso di tutto quello che il governo deciderà di mettere a disposizione per le aziende dell'area. L'azienda resta una delle pochissime realtà del settore in mani italiane, in un settore dominato dalle multinazionali, e ha confermato il suo legame con il territorio, anche quando immediatamente dopo il terremoto qualche dubbio sulla possibilità di ricostruire c'è stato. Guardi, abbiamo avuto, posso dirle, 48 ore di dubbio quando abbiamo visto i danni del terremoto. Abbiamo cominciato a guardare, ma non da un'altra parte, anche solo spostarci di 50-60 chilometri solo per trovare dei siti che fossero già funzionanti in cui trasferire le attività. Su questo punto, quando abbiamo valutato che ci metteva a rischio i nostri dipendenti, i nostri collaboratori, abbiamo deciso che ad un costo che è stato sicuramente superiore a quello della relocation, decideva di ricostruire a Mirandola e di restare a Mirandola. Tra l'altro, il distretto rappresenta un luogo dove spesso funziona il rapporto tra aziende, università, centri di ricerca e dove la vocazione all'innovazione resta forte. Assolutamente, noi collaboriamo moltissimo con l'Università di Modena, collaboriamo con Bologna, quindi è uno dei punti fondamentali e continuamente vengono fuori nuove idee, nuovi prodotti da queste ricerche. Con la storia di Belco ci fermiamo qui, ma in chiusura di questa puntata di Voci d'Impresa vogliamo cambiare argomento e passare da una storia d'impresa a un dato. È il dato diffuso da Unioncamere, secondo cui tra luglio ed agosto hanno cessato l'attività in Italia 41.000 imprese, ma è stata registrata la nascita nello stesso periodo di 51.000 nuove imprese. Sono numeri che vanno analizzati, perché spesso rappresentano un trasferimento, ovvero il tentativo di chi non trova lavoro dipendente di provare un'altra strada. Ma in uno spazio che da diversi anni racconta storie di imprese italiane, ci sembra importante riportarli e riproporvi anche il commento di Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, ospite della trasmissione 9 in punto di Oscar Giannino. Il saldo, tutto sommato, anche in questo grande momento di grande negatività, continua a essere sempre ridotto nei confronti degli anni passati, ma un dato positivo. È vero che la situazione economica del mondo dell'imprenditoria sta soffrendo in modo terribile, la crisi, il credito che non c'è, la riduzione dei consumi, il costo delle materie prime, sta tassazione che veramente ci mette fuori del mondo, costringendo addirittura alla chiusura di anche imprese che hanno una storia alle proprie spalle. E non solo, queste nuove imprese che sono nate, è la cosa che mi fa piacere anche raccontare ai vostri radioascoltatori, che in questo mese di agosto, dove solitamente la gente va in vacanza, 51.000 persone sono andate alla Camera di Commercio ad iscriversi per fare impresa. Ecco, sono tutti matti, spericolati, azzardati, e ci sono tanti anche in cerca di una soluzione della propria vita, di realizzare un proprio sogno. Ecco, io credo che tutto sommato questo paese, che abbiamo sempre detto che era un paese di poeti, di santi e di navigatori, continua a essere invece fondamentalmente un paese di imprenditori. E se pensiamo che abbiamo 6 milioni di imprese, quindi un esercito, un oceano, un'impresa ogni 10 abitanti, la dice tutta come la vocazione all'imprenditoria continua a essere, fortunatamente, io credo anche una soluzione della nostra cultura, del nostro stile di vita, della nostra storia. È vero che qualcuno mi chiede, ma di queste 51.000 ci sarà anche dell'autoimpiego? Ma probabilmente una parte sì, ma perché no? Non è forse meglio che per quanti hanno perso un lavoro in questo periodo o non riescono a trovarlo, aprire un'impresa sia una cosa utile piuttosto che aspettare che arrivi Godot? Ecco, credo che questa sia una riflessione che noi possiamo e che dobbiamo fare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.